e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Toute confiance aux autorités italiennes pour gérer cette situation qui concerne l'Italie. L'Italia è un paese solido. Siamo stati tutti toccati dall'esito del referendum. Renzi ha scelto di dimettersi. Voglio dire che è stato un buon premier che ha fatto importanti riforme sociali ed economiche. Abbiamo fiducia adesso nelle autorità italiane. È un paese solido su cui possiamo contare. Sono le dichiarazioni rilasciate proprio poco fa a margine dell'Eurogruppo che si tiene proprio in questa giornata. Eurogruppo disertato, peraltro, stamattina lo abbiamo appresa un paio di ore fa dal ministro dell'economia Padoan. Sono appunto le dichiarazioni rilasciate dal commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici sul risultato del referendum che ha portato appunto alle dimissioni che verranno rassegnate formalmente oggi davanti al presidente della Repubblica Mattarella dal premier Matteo Renzi. Moscovici, come avete sentito, ha riconosciuto che per l'Italia si prospetta un periodo di instabilità politica, ma è un paese che dal punto di vista economico è estremamente stabile, con una robusta economia e quindi insomma ci sono buone prospettive. La borsa, vi racconterò tra poco con un lungo approfondimento come si è comportata questa mattina. Gli operatori parlano, Nicoletta, di una reazione composta. Il quadro è positivo, la partenza è stata un po' turbolenta con grande difficoltà dei titoli finanziari, come era logico attendersi, poi però c'è stato un recupero. Tu come mi saluti stamattina? Con una bella frase di Paolo Coelho. A ogni essere umano è stata donata una grande virtù, la capacità di scegliere. Chi non la utilizza la trasforma in una maledizione e gli altri sceglieranno per lui. Paolo Coelho, scrittore brasiliano. C'è chi ha scelto di votare per il sì, chi per il no e chi ha scelto, Deborah, di non scegliere. Chi ha avuto le idee subito ben chiare, chi invece ha dovuto, come dire, schiarirsele cammin facendo e forse anche con un po' di fatica, perché indubbiamente scegliere è una delle cose più difficili da fare, perché non nascondiamocelo, una scelta prevede sempre una conseguenza e noi non siamo sempre disposti ad accettare tutte le conseguenze, specie se non sono quelle che noi riteniamo utili, giusti o favorevoli. A voi e per voi com'è andata? Che cosa vi ha aiutato a prendere la decisione? Quali fonti avete utilizzato? Che cosa vi ha sciolto eventuali riserve? I talk show televisivi, gli speciali sul sì e no, la stampa? O invece siete andati a riprendermi in mano la Costituzione, a leggere le funzioni del clan? O ancora avete chiesto consiglio ad un amico che ritenevate particolarmente autorevole, preparato, competente? Chiamateci e raccontateci. 800 24 00 24, perché il percorso, che sia veloce, lento, lineare, tortuoso, con cui prendiamo le decisioni, ci dà anche informazioni sul nostro modo di essere. Siete d'accordo? Non lo siete per nulla? Chiamateci ugualmente, il nostro numero verde è a vostra disposizione. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione con il dottor Aquilar il giorno dopo del referendum. Siamo soddisfatti della nostra scelta e anche del modo in cui siamo arrivati a prenderla? E come accettiamo il voto? Ecco, allora ti dirò come lo accettano i mercati, che reazione hanno. Peraltro, visto che tu hai dato indicazione agli ascoltatori, come sempre, di interagire con noi con il numero verde, possono farlo anche se vogliono, per così esprimere delle riflessioni sui temi finanziari, sugli scenari che si aprono a questo punto. Allora, intanto vi faccio una rapida fotografia della situazione sul mercato italiano in questo momento e poi andremo a commentarla con due ospiti che fra un po' salutiamo. Milano, FTSE MIB più 0,30% in questo momento, ma c'è stata una prima parte della seduta molto volatile. I futures questa notte davano addirittura un'apertura, quando si è cristallizzato il risultato referendario, di un ribasso del 4%. Poi l'apertura è stata negativa, -2%, con due grandi titoli che non ne riuscivano a fare prezzo e naturalmente sono quelli che immaginavamo. Monte dei Paschi e Unicredit sono le due grandi banche italiane che devono ricapitalizzarsi. Monte dei Paschi lo sta facendo adesso. Adesso l'aumento di capitale ha chiuso la prima fase venerdì con la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, operazione straordinaria a cui hanno aderito obbligazionisti per un valore di circa 1 miliardo, un po' meno delle attese, perché Monte dei Paschi si aspettava di raccogliere attraverso questa modalità almeno 1,5 miliardi. L'aumento di capitale necessario è di 5 miliardi, per cui adesso mancano all'appello 4 miliardi. Anche Unicredit deve fare l'aumento di capitale, ma questo è proprio monstro, 13 miliardi di euro da chiedere al mercato. In questo caso però non è stato fissato nessun arco temporale per l'operazione, qualcuno di dice vabbè, quantomeno Unicredit può rinviare in attesa di un quadro politico un po' più chiaro l'operazione. Intanto a Piazza Affari, dicevamo, la partenza era stata con un ribasso di 2 punti, poi Milano si è completamente risollevata, è passata in positivo, guadagnato fino a oltre 1,5 punti, adesso ha rallentato il passo, più 0,3%. I titoli migliori: Fiat più 4, Saipem più 3,5, Moncler più 3,19, Azimut più 3, Leonardo Finmeccanica più 3, Buzzi Unicem più 2,81, Banca Mediolanum più 2,67. In ribasso abbiamo appunto Unicredit meno 3,84, le due popolari che si stanno sposando, ma ancora insomma questo matrimonio ogni tanto trova qualche ostacolo. Banco Popolare e Pop Milano perdono circa 3 punti, Mediobanca meno 2,16, la stessa Monte dei Paschi adesso, partita con un ribasso teorico di 7 punti, si è risollevata, adesso perde lo 0,87%. Vi dicevo, questa è la fotografia, magari anche un'occhiata allo spread vale la pena darla. Nessuna fiammata incontrollabile per il differenziale di rendimento appunto tra il decennale italiano e il paritetico tedesco, adesso siamo a 169,80 punti base. Chissà che Mario Draghi non abbia già aperto il suo ombrello per acquistare titoli di Stato appunto italiani. Allora, con chi commentiamo tutto questo questa mattina, ma soprattutto gli scenari finanziari possibili? Ringrazio e saluto Alfonso Maglio, portfolio manager di Marzotto Sim, benvenuto, eccoci di nuovo a noi. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ormai è ricorrentemente il nostro ospite del lunedì, sì, per farci l'agenda finanziaria della settimana. Oggi andiamo su un approfondimento, eccolo, non è che è già caduto. Allora, intanto che lo recuperiamo, saluto anche invece un gradito ritorno per il nostro programma Enrico Vaccari, fund manager di Consulting Vest SGR. Vaccari, buongiorno, benvenuta anche a lei. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, ribadisco che gli ascoltatori possono scriverci se vogliono anche al 349-238-6666. Nicoletta. Funziona anche come un messaggio, esatto, per WhatsApp. Esattamente, che andremo a leggere. Esatto, e poi appunto la solita modalità per interagire con noi, che è quella della telefonata attraverso il numero verde. Allora, Vaccari, inizio con lei. Reazione composta, dicevamo, dei mercati, contrariamente ad ogni attesa, però so bene che tra gli operatori finanziari si dice sempre, a prescindere dalle notizie brutte o belle che siano, l'importante è che il mercato sia nelle condizioni di muoversi nella certezza. In realtà si apre una fase di nuovo di instabilità politica per l'Italia. Come la valuta lei la reazione di questa mattina, tutto sommato positiva, resistente e, ribadisco appunto, come voi amate definirla, composta? Sì, sì, una reazione composta che va a creare degli spunti poi per il mercato per le prossime settimane, per i prossimi mesi, nel senso che il mercato si nutre di certezze, come ha detto lei. Il mercato ha passato questa notizia e la considera passata. Adesso il mercato cerca di guardare al futuro. Il futuro prossimo saranno quegli scenari politici che si delineeranno nelle prossime settimane, su cui il mercato rifletterà e prenderà e farà le proprie valutazioni. Ma soprattutto abbiamo un appuntamento molto vicino, che è quello della riunione della Banca Centrale Europea giovedì prossimo, e lì si tratterà di capire se ci saranno nuovi stimoli e se ci sarà un prolungamento del quantitative easing. Quindi il mercato guarda già oltre e guarda di nuovo ai fondamentali. Proprio questa mattina sono usciti in Italia 2 indici, uno che riguarda i direttori e gli acquisti ed è un indice che è salito al 53,4, che è il più alto dato da febbraio del 2016, ma soprattutto i nuovi ordini sono saliti al 53,7, anche qua è un dato molto alto ed è più alto da dicembre del 2015. Quindi il mercato velocemente passa su quelle che sono le aspettative future. Mm. Posso dire che ce n'è anche un altro interessante che ho visto questa mattina, che forse varrà la pena commentare nei prossimi giorni con un altro approfondimento di Cuore e Denari. Sta continuando la tendenza al rialzo del mercato immobiliare italiano. Nel terzo trimestre di quest'anno c'è stato un incremento delle compravendite del 17,8%. È la nota trimestrale dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate che lo dice. In alcuni settori addirittura i tassi di crescita viaggiano a doppia cifra già da inizio anno. Allora, questo è un dato importante, naturalmente, che guarda e legge il passato, ed è un mercato immobiliare che ha sempre un po' sofferto di recente anche dell'incertezza legislativa legata alla fiscalità dell'investimento immobiliare. Chissà se questa tendenza appunto potrà continuare a prescindere dalle decisioni future che verranno prese dal nuovo esecutivo che si andrà a formare, perché qua a questo punto si sono aperte letteralmente le scommesse fra chi chiaramente parte auspica addirittura, perché nonostante molte forze politiche che brindano a questo no appunto siano tante, c'è qualcuno che però vocifera che possa addirittura essere fatta una scelta un po' impopolare da Mattarella, quella di assegnare un incarico ad un nuovo governo tecnico che prenda tutte le misure impopolari necessarie in una fase complessa come questa. Allora, Alfonso Maglio, vengo a lei su questo punto. Ecco, so che lei è uno di quelli che in realtà non auspica, ma ha fatto un pensiero anche su questo, no? Mercato finanziario e governo tecnico, possiamo stabilire una relazione su sì. questo punto? Sì, allora, una delle ipotesi potrebbe essere, un'ipotesi mi rendo conto anche un po' contro consenso, che un governo tecnico, non avendo l'ansia, per così dire, della rielezione, può permettersi di prendere anche, di fare anche dei provvedimenti che sono impopolari, così come abbiamo visto è stato anche nel recente passato in altri ambiti, per cui la precarietà politica che esprime i suoi massimi con un governo tecnico potrebbe paradossalmente favorire la risoluzione in tempi anche rapidi, se forse anche se impopolari, del problema delle banche. Cioè, un governo, per così dire, ordinario non farebbe mai qualcosa di impopolare, mentre invece un governo tecnico potrebbe da un giorno all'altro, come è stato fatto appunto in altre circostanze, risolvere in maniera definitiva, anche se impopolare, il problema delle tre banche, quattro banche che sappiamo essere in difficoltà. Secondo il Financial Times erano otto, come si ricorderà. Sì, le quattro più quattro la lista, sì, infatti. Quindi questo potrebbe essere un po' un'altra opzione, in cui da un male, governo tecnico, perché ovviamente da precarietà, potrebbero derivare degli effetti risolutivi. E insomma, lo vedremo, lo sapremo sicuramente entro pochissimo. Detto questo, al momento accantoniamo anch'io questo pensiero, che in realtà a qualcuno fa accapponare un po' la pelle, certo, solo a pensarci. Detto questo, noi ci limitiamo appunto a commentare quello che sarà poi la cronaca. A proposito di questa, volevo ancora rimanere sul tema finanziario, sulla giornata di oggi, perché ci si aspettava, e ad inizio sembrava così, un tracollo autentico dei titoli del settore finanziario, in particolar modo appunto di Monte dei Paschi e Unicredit. Sono ancora negativi, ma senza questo bagno di sangue che era stato preannunciato e pronosticato. Allora, andiamo un po' allo scenario per le banche. Enrico Vaccari, torno da lei. Sono state davvero massacrate nelle settimane passate, la BCE continua ad alzare anche un po' i paletti per tutte le operazioni di aggregazione che sono in corso, nella fattispecie per una. Abbiamo avuto anche nello scorso appunto venerdì questi dubbi sulla costituzionalità della riforma delle popolari che non sono infondati, e sul tema dovrà esprimersi la Corte Costituzionale, lo ha stabilito il Consiglio di Stato, quindi tema sempre caldo per quello che riguarda il nostro paese. Ma a questo punto possiamo dire che hanno scontato ogni possibile cattiva notizia? La reazione tutto sommato che regge stamattina dei titoli bancari a fronte dell'esito referendario, come la dobbiamo interpretare? Quello che diceva lei è giustissimo, cioè il mercato incorpora quasi sempre tutte le notizie cattive o buone che siano e tende ad anticiparla. Anche in questo caso il settore bancario ha anticipato molte delle cattive notizie che stanno uscendo in questi giorni. In modo particolare, in termini di valutazioni, tutto il settore bancario europeo quota ad un valore, prezzo, valore di libro, quindi che è un indicatore che misura il prezzo in rapporto al patrimonio, quindi senza guardare gli utili, questo valore per tutto il settore bancario europeo è 0,7, che è un valore estremamente basso, cioè quasi tutte le banche in Europa quotano sotto al proprio valore di patrimonio. Ed in modo in particolare, per tornare all'Italia, nelle banche che sono presenti all'interno degli indici europei, le tre banche che hanno il rapporto prezzo-patrimonio più basso in assoluto sono tre banche italiane. Quindi, se diciamo che tutto il settore bancario europeo sconta molte delle cattive notizie, in modo particolare il settore bancario italiano è estremamente sottovalutato. E questo gli investitori lo notano, ed è uno di quei motivi per cui, quando ci sono queste variazioni così violente, ne approfittano, e queste variazioni si trasformano in buying opportunity che gli investitori colgono. Oltre al settore bancario, Enrico Vaccari, dove le vede lei queste buy opportunities? Qualcuno ha detto questa mattina i settori che stanno approfittando della situazione sono quelli che hanno una forte esposizione, infatti se li andiamo ad elencare proprio così, sul mercato americano, dove gli operatori puntano sulla Trump Economics, Fiat più 4%, poi abbiamo per esempio tutto l'ambito della difesa, la stessa Campari che ha una bella fetta di fatturato esposta in dollari, quindi è così in questo momento, il mercato cerca in assoluto il bicchiere sempre mezzo pieno delle situazioni un po' così incerte? Assolutamente sì, è quello che sta accadendo in America, questa ripresa che va oltre le aspettative con i dati che abbiamo visto nelle settimane scorse, con gli ordini di beni durevoli più 4,8, col prodotto interno lordo americano che è proiettato verso una crescita oltre il 3%, favoriscono sicuramente il dollaro. Il dollaro che vede nella Fed un allentamento della politica distensiva che era stata fatta in questi anni e progressivamente andrà ad alzare i tassi. Il dollaro si è rafforzato e ai massimi degli ultimi 5 anni. Tutto questo influenza molto positivamente tutte le aziende esportatrici in Europa, quindi è un vantaggio molto forte. E in modo particolare, sempre per parlare di occasioni e di buy opportunity, in America le valutazioni azionarie sono decisamente più elevate, sempre guardando gli stessi indicatori del prezzo in rapporto al patrimonio, siamo a 2,5 volte il prezzo in rapporto al patrimonio, in Europa siamo a 1,6 e per tornare alla nostra amata Italia siamo a 0,8, quindi in assoluto il mercato italiano che è stato il peggiore in questo anno è sicuramente il mercato che ha i fondamentali più attraenti. È chiaro che però per rendere attraente un mercato ci vuole una politica che funzioni e ci vogliono le riforme, questo è il punto. Un po' di stabilità dobbiamo in qualche maniera garantirla al panorama degli investitori internazionali. A proposito di investitori internazionali, aspettiamo che si pronunci un importante fondo sovrano del Qatar, appunto il fondo sovrano di Doha, che si era candidato a mettere sul piatto almeno 1 miliardo di euro per partecipare alla ricapitalizzazione di Monte dei Paschi. Nei giorni scorsi aveva detto verremo allo scoperto dopo il 4 dicembre, quindi quando conosceremo il risultato elettorale italiano. Alfonso Maglio, ci fa un po' la sua ipotetica agenda settimanale per le vicende di Monte dei Paschi? Oggi peraltro sono in programma tantissimi incontri fra appunto i vertici della banca, gli advisor di tutte queste operazioni di ricapitalizzazione, cioè l'operazione di ricapitalizzazione è una ma è fatta di tanti tasselli. Insomma, secondo lei il fondo del Qatar che decisione prenderà? Quello che deciderà il fondo del Qatar è ovviamente molto difficile da intuire. Noi possiamo fare un'analisi oggettiva di cosa è stato proposto per risolvere i problemi di patrimonializzazione e che cosa è successo. In buona sostanza i numeri sono 3, 5 miliardi sono quelli che servono. 1 miliardo è stato recuperato dalla conversione delle obbligazioni, come sappiamo, con anche dei sovrapprezzi anche molto generosi contro attese di raccolta di 1,5 miliardi, per cui direi che è andata la raccolta dal punto di vista, dalla parte degli obbligazionisti, leggermente sotto le attese rispetto a quanto il management di Monte Paschi si aspettasse, però la parte rimanente, quindi altri 3,5-3 miliardi di aumento di capitale, rimane la parte più critica per due aspetti. Primo, perché è difficile immaginare che nel contesto attuale, a maggior ragione dopo l'esito del referendum, ci siano investitori istituzionali che non aspettino altro di entrare in una banca come Monte Paschi, e secondo perché appunto la dimensione dell'operazione è molto ampia, per cui rimane un elevato grado di incertezza. Anche il fondo del Qatar, bisogna aspettare poi un coinvolgimento concreto, perché poi alla fine questa seconda gamba di patrimonializzazione, quindi l'aumento di capitale vero e proprio, che costituisce gli unici soldi veri che entrano, per il resto, per la parte obbligazionista, degli obbligazionisti, non è stato fatto altro che un che un giro di poste contabili, quindi la cancellazione di un debito. Esatto. Però i soldi veri arrivano con l'aumento di capitale. Con l'aumento di capitale rimanente. Senta Maglio, adesso volevo anche introdurre il tema dello spread. Se non riesco ad approfondirlo ora, magari lo facciamo dalle 11.45 in avanti verso le 11.50, tanto per concludere questo nostro spazio. Ma mi chiedevo, so che in realtà non è stato il tema più commentato in Italia in queste ore, perché questo spazio se lo è guadagnato il referendum appunto italiano, l'impatto economico sui mercati finanziari, ma anche il tema della consultazione elettorale austriaca è stato interessante per voi operatori finanziari. In che modo, insomma, è stato come dire, visto con positività il risultato raggiunto dal verde europeista Van der Bellen? Ma sicuramente dal punto di vista dei mercati finanziari i risultati elettorali in Austria, con diciamo più che la vittoria del candidato che ha vinto, con la sconfitta di Hofer, è stata vista con una certa positività, perché si elimina un elemento di discontinuità e una parte estrema della politica europea. Nel prossimo anno sono molti gli eventi politici che contribuiscono a dare incertezza in ambito europeo, però almeno dalla parte dell'Austria siamo tra virgolette a posto, perché comunque è come se si fosse temporaneamente interrotta questa catena di eventi anti-europeisti e anti-establishment che sono partiti iniziati con la Brexit, poi Trump, poi il referendum italiano, e in Austria si è avuta anche se magari temporanea, non lo sappiamo, però inversione di tendenza. Il candidato Hofer aveva veramente poche chance, diciamo, chance un po'. Sì, e poi comunque il suo programma era veramente molto forte, molto, molto forte. Ma come lei sa, però, qua, siccome ci possiamo aspettare di tutto, certo, non era neanche l'ipotesi proprio peregrina che non trovasse un consenso un po' più alto. Detto questo, l'effetto sorpresa non ci è mancato più volte negli ultimi tempi. Ci fermiamo perché invece devo fare la fotografia di borsa di questo momento. Segnalo intanto che il team degli analisti di Mediobanca Securities dice di aspettarsi la formazione la prossima settimana di un governo guidato da Piercarlo Padoan oppure dal presidente del Senato Pietro Grasso. Questi sarebbero gli scenari più probabili dopo le dimissioni di Matteo Renzi, e quindi insomma, come vedete, anche le società si stanno a questo punto sbizzarrendo a fare il toto nomine per il prossimo governo. Adesso ci fermiamo, la borsa che per la verità abbiamo raccontato fino ad ora, ma ci mancano ancora dei dettagli, a tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Ognuno di voi, come del resto tutti gli italiani, dirà la sua sul merito della riforma e si batterà per ciò che riterrà opportuno in un confronto tanto più efficace quanto più composto. E sarà necessario, dopo il suo risultato, il contributo di tutti, sereno e vicendevolmente rispettoso, rispettando anzitutto l'esercizio del voto dei cittadini. Così il presidente Mattarella alla 33esima assemblea dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che si era tenuta a Bari a metà ottobre, della serie: quando la decisione è stata presa, anche se non era quella che auspicavamo, occorre mettere da parte le polemiche, superare le divisioni e collaborare. Non è sempre facile però fare questo passo in politica, ma anche negli altri ambiti che riguardano la nostra vita relazionale e sociale. Voi ce la fate? 800 24 00 24, una domanda che aggiungo a quella che vi ho fatto in apertura e che vuole coinvolgervi nel raccontarci che cosa vi ha aiutato a scegliere. Bene, di questo riflettiamo insieme al dottor Francesco Aquila, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, che è tornato a trovarci. Buongiorno dottor Aquilar. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Dottor Aquilar, una riflessione breve e quindi andrei subito dritto al tema, chiedendo naturalmente che cosa hanno provato i nostri ascoltatori quando hanno scoperto l'esito, il risultato. Potete anche usare gli emoticon e mandarci la faccina che racconti un po' il vostro stato d'animo. Ma dottor Aquilar, andiamo, proviamo a mettere qualche punto fermo in questa giornata dopo il referendum. Certo, sicuramente le persone che hanno votato per chi ha vinto saranno prevalentemente soddisfatte e serene, anche se qualcuno magari ha qualche riserva, mentre può essere più variegata la reazione emotiva di chi ha votato contro il risultato deciso dalla maggioranza. Certo. Per questi ultimi, volendo, possiamo dare alcuni semplici consigli di psicoterapia cognitiva, riprendendo i saggi consigli dell'amico e collega Bob Leahy su Psychology Today per le elezioni americane, adattandola alla situazione italiana nostra. Certo. Certo. Allora, iniziamo. Noi naturalmente ci focalizziamo sull'aspetto psicologico e quindi lavoriamo sulle emozioni. Due indicazioni. Certamente, sulle emozioni noi dobbiamo tenere presente che anche se alcuni stamattina si sono svegliati rimuginando, autocompatendosi, arrabbiandosi, avendo disappunto, noi possiamo dare alcuni suggerimenti, sono sostanzialmente 5. Al primo posto mettiamo le emozioni nel loro contesto. Questo referendum è stato molto polarizzato e infarcito di rabbia, ansia, umiliazioni e talvolta insulti, e chi ha partecipato emotivamente alla contesa può aver avuto reazioni tremendamente intense subito. Ma queste reazioni si dissiperanno con il tempo, i nostri pensieri e le nostre emozioni cambiano con il tempo. Provate a chiedervi: le mie emozioni sono cambiate dopo essere stato molto contrariato in altre elezioni? La risposta probabilmente sarà sì, e questo è il primo punto. Andiamo al secondo punto, perché magari ragioniamo sul pensieri, magari ci vengono in modo automatico, ma sono dei pensieri negativi. Certo, il secondo punto è appunto identificare questi pensieri automatici e depotenziarli. Essi includono l'idea di aspettarsi come lettori del futuro che ci sarà un'economia che collassa, oppure pensieri catastrofici tipo saremo ridotti sul lastrico. I mercati che crollano, Deborah. I mercati che crollano, oppure etichettature, cioè chi ha vinto è un idiota, oppure dimenticanza del positivo della controparte. Nel senso di avere l'idea tutto quello che faranno i vincitori sarà negativo, e anche il cosiddetto pensiero dicotomico, cioè non c'è niente nei vincitori che sia buono. Questi pensieri, come ogni pensiero catastrofico, sembrano sul momento totalmente credibili e piuttosto terrorizzanti. Tuttavia, in passati referendum e in passate elezioni, alcuni avevano fatto predizioni catastrofiche, ma solo poche di esse si sono rivelate totalmente vere. Ecco perché occorre tentare di distinguere, all'interno degli schieramenti, tra persone che hanno posizioni diverse e con alcune di esse anche i sostenitori della controparte potrebbero concordare almeno in parte. Dottor Aquilar, guardiamo un po' al futuro, cioè invitiamo sempre le persone a stare nel qui e ora, questo anche voi psicoterapeuti suggerite questa dimensione, ma guardiamo al futuro, nell'immediato le persone che cosa possono, abbiamo delineato che cosa possono aspettarsi, ma allungando l'occhio? Certo, l'altro punto è che si potrebbe in questo momento sull'onda dell'emozione sovrastimare l'importanza dell'effetto a lungo termine del risultato elettorale, dimenticandosi che qualunque sia il risultato elettorale sono possibili controlli e bilanciamenti. E come quarto punto, per chiarire poi nella vita emotiva delle persone quanto questo possa essere utile, conviene chiedersi quanto la vita quotidiana cambi realmente per la maggioranza delle persone. Il cambiamento sarà infatti non così sconvolgente, la maggioranza delle persone potrà andare a lavorare, incontrare gli amici e i familiari e vivere la propria vita senza grandi alterazioni. E infine c'è l'idea di prevedere negativamente i propri sentimenti futuri. Naturalmente nell'immediato le persone che hanno votato in direzione contraria al risultato elettorale possono immaginarsi di continuare a provare sentimenti ed emozioni spaventose collegate al risultato elettorale anche nel futuro, senza limiti di tempo. Invece occorre non ignorare che esistono, oltre lo scorrere del tempo, numerosi fattori che mitigano l'emozione del momento. Questa considerazione fa sì che il risultato elettorale, anche per chi si è appassionato fortemente alla vicenda, sembrerà meno importante in poche settimane o mesi. Intanto nel nostro siamo arrivati alla fine, facciamo un cammino a ritroso alla domanda che ho posto in apertura di trasmissione ai nostri ascoltatori: come avete preso la decisione? Avete letto, ascoltato i pareri dei politici, avete letto i giornali, avete fatto una ricerca personale per recuperare direttamente le informazioni e quindi per scegliere senza condizionamenti di testa vostra? O invece, professor dottor Aquilar, c'è ancora, vero? Certo. O ancora avete chiesto all'amico, al figlio, al collega che ritenete particolarmente preparato e autorevole? Intanto ringrazio i nostri ascoltatori, ci hanno mandato una pagina e più di emoticon, hanno risposto molto brillantemente a questo invito, ma molti di loro ci hanno raccontato il percorso, il proprio processo di scelta, che può essere, può dare anche delle indicazioni utili. Andiamo a Claudio da Milano, rapidamente, buongiorno. Buongiorno a lei. Claudio. Io ero indeciso, ho mandato un sms a 5 miei amici fidati chiedendo loro cosa avrebbero votato, 2 votavano no, 1 sì, 1 non pervenuto, 1 era indeciso, ho votato no e arrivederci. E quindi ha raccolto, grazie per aver diviso questo processo, ha di fatto il suo sondaggio personale con noi. Dottor Aquilar. Questa scelta del nostro ascoltatore è basata sulla maggioranza delle persone di cui lui si fida. È una maggioranza risicata, da come lui stesso ci ha raccontato, però l'ha utilizzata per confortare probabilmente la sua stessa decisione iniziale. Ed è uno dei processi di scelta che possono essere utilizzati, confrontarci con le persone di cui ci fidiamo e tenere in grande considerazione il loro parere. Va benissimo, non è l'unica modalità, ma è una modalità assolutamente positiva. Interrogarsi sul proprio processo di scelta è un'occasione, dottor Aquilar, che ci permette di che cosa capire in più di noi? Di capire in più di noi come facciamo ad orientarci. La nostra vita quotidiana è continuamente costellata di scelte. Scelte piccole o scelte grandi, dai gusti del gelato che dovremo scegliere alle posizioni che possono modificare la nostra vita, pensi per esempio ad una scelta matrimoniale, certo, o ad una scelta di interruzione di una relazione stabile. Quindi essere consapevoli del nostro processo di scelta ci aiuta a renderlo più articolato, a prendere in considerazione più fattori, ma nello stesso tempo a non andare ossessivamente a cercare tutti i fattori possibili, perché ogni scelta che facciamo nella nostra vita troppo breve la facciamo con un numero di informazioni insufficiente. Dottor Aquilar, io la ringrazio per questa focus e volevo invitare anche i nostri ascoltatori a considerare che anche il nostro organismo è chiamato ogni giorno a fare un referendum. Se ci pensate bene, infatti, il nostro sistema immunitario è chiamato quotidianamente a compiere delle scelte. Allora, abbiamo raccolto e vi invitiamo ad ascoltarla sul sito. Un'intervista al professor Alberto Mantovani, che è direttore scientifico di Humanitas, è un ricercatore che il mondo ci invidia, che di recente ha ricevuto anche 2 prestigiosi riconoscimenti, il Robert Koch Award 2016 per la medicina, che è il più importante riconoscimento tedesco assegnato annualmente all'eccellenza nel campo delle scienze biomediche, e poi il premio Roma allo sviluppo del paese, un premio attribuito annualmente a personalità del mondo dell'economia, delle scienze, del sociale e della cultura. Andate sul nostro sito e trovate il contributo del professor Alberto Mantovani. Il referendum, anche il sistema immunitario, è chiamato al sì e al no. Grazie, informazioni sul traffico. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita. Puoi dirmi. E allora sì, il risultato delle urne è stato netto. Gli italiani hanno bocciato la riforma costituzionale. Questa mattina c'era grande attesa per verificare quella che sarebbe stata la reazione dei mercati finanziari. Una reazione, e ormai questa sarà un po' la parola d'ordine delle prossime ore, composta per Piazza Affari. Adesso meno 0,17% sul FTSE MIB, un'apertura un po' più preoccupante, più rossa. Il listino di Milano perdeva oltre 2 punti, con Monte dei Paschi e Unicredit che all'inizio non riuscivano a fare prezzo perché sono le 2 banche che devono pesantemente ricapitalizzarsi, e chiaramente uno scenario di instabilità rende un po' più precaria questa circostanza. Unicredit può comunque rinviare, anche se in realtà non se lo può permettere per sempre, appunto, questa operazione, mentre è in corso quella di Monte dei Paschi. I 2 titoli in questo momento sono negativi, Unicredit meno 4,75, peraltro stamattina si è appreso che è partita praticamente la trattativa ufficiale con un altro colosso del risparmio gestito, Amundi, per la cessione di Pioneer. Erano tanti gli attori in lizza per questa operazione, da stamattina trattative in esclusiva con Pioneer. E poi Monte dei Paschi, -2%. Chiudiamo il nostro commento sulla reazione dei mercati finanziari con Alfonso Maglio, portfolio manager di Marzotto Sime, ed Enrico Vaccari, fund manager di Consultinvest SGR, perché vogliamo monitorare un po' la reazione del mercato obbligazionario. Lo spread fra BTP e Bund adesso è a 166,7 punti base. Non mi pare che ci sia nessuna fuga dai titoli di Stato italiani in ragione di questo risultato elettorale. Chissà che Mario Draghi stamattina non abbia aperto il suo ombrello di contenimento dell'allargamento dello spread. Maglio, lei che ne pensa? In ogni caso non ce lo dirà mai. No, allora non ce lo dirà mai oggi, in realtà sappiamo quanto compra al mese e questi dati sono disponibili ma in maniera dilazionata. Tornando allo spread, è addirittura migliorato durante la nostra chiacchierata mattutina, perché ha aperto a 170, appunto si diceva 166, per cui c'è un deciso miglioramento. È molto probabile che la Banca Centrale Europea sia intervenuta per arginare eventuali discese brusche. Il dettaglio su questo e il dato puntuale non l'avremo oggi, avremo un dato meno puntuale differito nel tempo. Certo. E invece lei, Vaccari, che cosa ne pensa? A prescindere poi dall'iniziativa di questa mattina, lei ce lo anticipava prima, il focus importante sarà sulla riunione dell'8 dicembre, perché lì Mario Draghi dovrà preparare, o quantomeno dovrà dire cosa farà, dovrà preparare il terreno alle decisioni che verranno assunte a marzo, quando formalmente si chiude il quantitative easing in corso. Gli 80 miliardi di euro mensili di titoli di Stato e obbligazioni corporate che la BCE compra, quanto conterà il risultato elettorale italiano sulle scelte che verranno preannunciate giovedì? E tornando all'ombrello, Mario Draghi l'avrebbe chiuso molto volentieri. Nelle scorse settimane ha già fatto dichiarazioni in questo senso, avrebbe passato volentieri la palla dalla politica monetaria a una politica fiscale, a una politica delle riforme. Purtroppo tutto questo, anche a causa dell'esito del referendum, viene ritardato, per cui penso che giovedì Mario Draghi dovrà estendere il piano di acquisto di 80 miliardi al mese almeno per 6 mesi. Tra l'altro giovedì è molto importante perché la BCE pubblicherà anche le proiezioni che includeranno per la prima volta un outlook che arriverà fino al 2019, quindi capiremo quali sono i dati previsti di inflazione e quale sarà il movimento dei tassi, perché non dobbiamo dimenticarcelo che l'andamento dello spread italiano, ma di tutti gli spread in generale, sono stati molto condizionati da quello che è accaduto negli Stati Uniti, quindi questo repentino rialzo dei rendimenti che forse è stato anche un po' troppo rapido. Intanto segnalo che Standard & Poor's, l'agenzia di rating, questa mattina ha anche detto per ora nessun impatto sulla valutazione appunto dell'Italia dall'esito referendario. Noi stiamo andando verso la chiusura, però insomma abbiamo commentato a caldo quello che sta accadendo stamattina sui mercati finanziari dopo il referendum di ieri. Mi chiedo a questo punto se è il caso di dare così qualche indicazione di massima per il breve termine, per il medio termine, appunto, ai risparmiatori che ci ascoltano. Maglio, secondo lei, adesso vi faccio una domanda che anche in questo caso richiederebbe la sfera di cristallo, ma governo tecnico, non tecnico, politico, di protesta, di contestazione, quello che vogliamo. Secondo voi le prossime misure, adesso c'è anche in ballo la legge di bilancio, appunto, che deve avere il via libera definitivo, perché questo è un altro grande appuntamento del momento, ma secondo voi ci sarà la tentazione in futuro, un po' per sempre tenere a bada il debito pubblico, di rimettere mano fiscalmente parlando al risparmio degli italiani? Vi chiedo un po' un commento, questo è un grande spettro che ogni tanto torna, qualcuno ogni tanto la tentazione ce l'ha di rimettere in pista una piccola patrimonialina, insomma voi che ne pensate di questo? Maglio, inizio da lei. Ma sicuramente l'ipotesi è plausibile, abbiamo visto che è stato fatto anche in passato e rientrerebbe nell'ambito delle possibilità che può porre in essere un governo tecnico, in quanto estremamente impopolare. Questo toccherebbe tutti i cittadini di qualsiasi classe economica sociale, per cui sarebbe una cosa possibile, estremamente impopolare. Il punto è che il mio parere è che non sarebbe risolutiva, perché questi sono interventi così one shot, temporanei, che tamponano la posizione, però se poi non si disinnesca il meccanismo che genera l'aumento del debito e tutti gli sprechi, poi è solo una questione di tempo che poi bisogna farne un altro. Enrico Vaccari? Ma oltre che una decisione molto impopolare, sarebbe troppo controtendente, perché l'onda lunga che ci arriva dagli Stati Uniti è verso una riduzione fiscale, soprattutto alle imprese. Lei guarda proprio agli Stati Uniti adesso, le piacciono, esatto. Le piace proprio la strada che sta prendendo l'economia americana. Diciamo che è una ventata nuova che potrebbe aiutare un'Europa che da molto tempo sta sui troppo... è piena di polvere, insomma, tutto sommato è un'Europa che non si è mai mossa e in cui le riforme sono sempre mancate. Non possiamo pensare che Mario Draghi da solo possa fare tutto. Ha fatto molto e credo che farà anche molto, però abbiamo bisogno delle riforme. Si è sostituito fin troppo la politica, infatti gli è stato anche quasi spesso, come dire, attribuito con tono un po' negativo. Grazie ad Alfonso Magni e Enrico Vaccari per essere stati con noi. Intanto le faccine continuano ad arrivare dagli ascoltatori. Le guarderemo. Ecco qua, perfetto. Allora noi ci ritroviamo domani. A domani. A tutti, buona giornata.